Affacciamo la tua cazzo minchia, che se botti in mazzo, aspetta un minuto che mi faccio la voce, cioè che pensavi a qualcosa di bene. Mordi fetto lecce, manco lette, assate maletti, cazzo, accenami che li come ti manco le fit love gisti. Coste, mette la cosina molto buona che mi mialda il colestamento. Chi ama la ostina, cazzo merda, mi ferre, stiff, glice, si absorbi. Yeah.